Aloha, buongiorno e ben ritrovati e ben svegliati. Questo è l'Early Bird Special. È la primissima colazione che viene servita tutti i giorni, dalle 6 alle 7, dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, ho con me una pila di grandi dischi perché voi vi meritate il meglio. E naturalmente mi prenderò la libertà di raccontarvi qualche storiella sulla vita delle rock and roll band preferite. Scott McKenzie ci porta a San Francisco, ma assicuratevi di avere un fiore tra i capelli. If you're going to San Francisco, be sure. Beh, le storie che racconta il vecchio Chucky Boy sono quasi sempre divertenti. Aneddoti rubati nei backstage dei concerti o nelle hall degli alberghi dove le band andavano a dormire durante i loro estenuanti tour. Questa volta, invece, vi voglio portare in una chiesa. Il momento è piuttosto triste perché siamo ai funerali di Brian Jones, il chitarrista dei Rolling Stones ritrovato morto una settimana prima nella sua piscina. A celebrare la triste cerimonia c'è il reverendo Hugh Hopkins, che si lancia in un pesante ammonimento per Keith Richards, Anita Pallenberg, Mick Taylor, Bill Wyman e Charlie Watts presenti al servizio funebre. Mick Jagger, tra parentesi, non c'era perché è partito per una vacanza. Il reverendo gli apostrofa con questa frase: Brian Jones era il ribelle, non sopportava l'autorità, le convenzioni, le tradizioni. Un atteggiamento tipico della sua generazione, che appunto vede nei Rolling Stones il simbolo di un nuovo modo di vita. Gran parte dei valori che questa chiesa, prosegue il pastore, difende da ben 9 secoli, sembrano per essi irrilevanti. Keith Richards, in un angolo della chiesa, bisbiglia: balle! Ma siccome il silenzio è assoluto, quella parola rimbomba forte e chiara fino alle orecchie del reverendo Hopkins. Incorreggibile Keith Richards, che continua ancora oggi, nonostante le maledizioni di quell'uomo di chiesa, a suonare la musica del diavolo ed avere un successo della Madonna. Eccoli con gli Stones al completo, Emotional Rescue. Just a poor girl in rich man's house. We'll be right back. I want you stay. Voglio che rimaniate insieme a me, perché qui c'è solo il meglio. Questo è l'Early Bird Special, tutti i giorni dalle 6 alle 7. Questa è la prima colazione che serviamo qui a Rock FM. Oh ragazzi, potete entrare in contatto con me, e lo potete fare tramite il vostro computer, la cosa più facile del mondo, perlomeno così mi dicono. Io non sono un grande esperto, e per questo mi faccio aiutare dalla mia personalissima assistente che si chiama Sherry. L'indirizzo della mia casella postale è bird@radiorockfm.com. Mi raccomando, aspetto vostre notizie e magari qualche storia sulle vostre esperienze di rock and roll. E a proposito di rock and roll, di quello forte forte, abbiamo con noi The Saxon, Denim and Leather. Wearing denim, wearing leather. One Ladder, jeans e cuoio. La divisa per ogni rocker che si rispetti. Attenti a quelle borchie, ragazzi, potreste ferire qualcuno. A proposito di sicurezza, al bar ne ho sentita una buona. Chi mi viene a raccontare queste cose è il solito barfly, la mosca da bar, quella che passa le giornate al tavolino leggendo tutti i quotidiani dalla prima all'ultima riga. E ogni tanto se ne salta fuori con una storiella così bella che vale la pena persino raccontarla qui in radio. Beh, dovete sapere che la Commissione Americana sui Prodotti di Consumo ha comprato 80.000 distintivi per propagandare una campagna per i giocattoli sicuri. Si sono però dovuti distruggere i distintivi perché erano troppo aguzzi e rivestiti di vernice al piombo. Consoliamoci, per modo di dire, con gli Smith. I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, oh, oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc. Walkman starting to Big Mouth Strikes Again, questa boccaccia colpisce ancora. E la boccaccia in questione è quella di Chuck Berry. Tutte le mattine dalle 6 alle 7 vi serve Early Bird Special, la prima colazione qui da Rock FM. Per voi grande musica e per il sottoscritto in questo preciso istante una tazza di caffè nero bollente, naturalmente portatami dalla dolcissima, elegantissima e molto sexy Cherie. Vieni un po' qui, Cherie. Aloha.